Luca Flipper. Attenzione Luca Flipper. Hola. Attenzione Luca, Luca Flipper. Attenzione Luca Flipper. Ora prova, prova, prova. Ora, ora, ora, ora. CQ canale 10. CQ canale 10. Attento capo, attento. Sentiamo dopo, quindi sta uscendo bene. Aspetta solo un attimino solamente. Quando si è aumentato adesso il segnale? Così? Sì, 9.10, quasi 9.20. Ok, e adesso così come adesso? Adesso sei 9.20 pieno. Ok, grazie Luca, puoi andare, ciao, grazie. E a dopo, ciao Giuseppe, ci sei, ciao. Chicos, attenzione, la Sardegna che chiama, Breco. Avanti. Uy, buonasera. Buonasera, Carlo. E beh, Carlo, buonasera, Antonio sono. KK, in che direzione sei? Sono la parte al mercato. Beh, quello che sei 9.40 qua. No, qua ti sento bene perché sei vicino a me. K. Ehi, già lo so, ma capo stasera c'è una un sul 10. C'è Mogione forse, quindi c'è. KK. Adesso facciamo scaldare a bambino. E poi vediamo se mi sento. Davvero? Cosa hai preso? Chi ce l'aveva? Un nostro CB ce l'aveva? Un amico di Lucariello. Comincia con la G, così è. Siamo molto amici, una persona molto in gamba, te lo dico già, una persona in gamba vero, una persona seria. Sì, sì, è un uomo praticamente, tra uscito dalla... Lui, quello è quella persona lì, guarda, è una persona che tiene le cose bene proprio, di quelli proprio maniatici, tiene le cose, le tiene bene, non te ne dà roba che non va bene, no, te lo posso garantire. Sì, è un attimino... alimentato le altre tampermi, non punir roba che vada di meno perché se non ce la fa. Io ho da 30 ampere. Dai cinesi? Sì, quindi gli ho toccato lo strumento, me l'ho regolato a Sì. Guarda, ti posso dire che è una persona seria, te lo giuro. È una persona come si deve. Perché io lo conosco da molti anni e te lo garantisco. Sì, sì, anche Luca, che lo diceva a lui, ed era garantito quello che mi dava, perché va bene, eccetera. Ma già l'ultimo nuovo. Ente, muchachas, ente, aspetta che rispondo a Ghiccio, siccome mi è arrivato un messaggio. Ehi, Ando, io sono quasi arrivato a casa, sono a Mater Ecclesia adesso, stacco, poi riattacco da casa, nel caso ci sentiamo più tardi. Ok, dai, ci sentiamo. Ciao, Ando, a dopo. Antonio. Ehi, Antonio, ascolta Antonio, non ho qualcosa da parlare. Mamma, cosa hai toccato? Ti sento molto male. Male mi senti? Aspetta. Così va bene? Così va benissimo. Ok. No, devi segnare come a tu. Ma come mai sei così basso giù? 69. Vabbè, perché sto facendo delle regolazioni. Guarda adesso, com'è adesso, guarda. Vai. Avvoggiarsi in giù. E com'era? Era molto basso, era 9, 8, 9 a picchi. 8, 9 era. Poi adesso com'è? Sei oltre i 9, 10. Com'è alzato? Ah, ok, va bene, dai. Grazie a tu, dai, sto facendo dei controlli, grazie. Cappa, come mai sei così basso? Perché è una radio che è stata riparata, dai. Vabbè, dai, non fa niente, andiamo bene, grazie a tu. Cappa, dai. Ma ricordo la sai, spagnoli che la mi dai vassa. Si accendono l'amplificatore, vedi. Attenzione Spagna, copiate l'Italia, adelante, brecco! Attenzione Spagna, copiate l'Italia, brecco! Hola! Vieni avanti! Diretto tu. In giro, sotto, tutto, tutto, E non si può stare manco possibile, cazzo. Voglio via. Tutto su, sì, tu. Sì, già. No, sono andato a fare dalla commissione. Sì, io ho andato a magia proprio in commissione, poi mi sono fatto tutto il regalo, poi ci sono giocato e niente di che stamattina. Va tu. Che strano, cazzo. Ma sono tanti anni, sono speso, sono 180 euro di... 10 o testa in 5 minuti. Ma cos'è il peso, c'è cosa? Io voglio giocare a casa, eh. Non giocare a casa mia, mi serviva. Quanti serviva, scusa? Io ho giocato da per casa. E l'hai comparato? La carabina. Se va la carabina per casa, perché sta da casa. La volta la noia, avete campagna, la pesca. Vabbè, la carabina. No, la famiglia lanciati, adesso c'è la carabina più prima. Perché è stato uguale. Ma grappa. Aspetta un attimo, che si abbaglia la cosa, che strano. Un attimino, c'è solo la luce. C'è la luce. Tu non ci riuscire a fare questo, eh? Io sto ancora a fare, sicuramente. Ehi, eccomi. E sei con Antonio. Ma è già sì, sto arrivando un po' con voce. Non è già fatto, una cosa mi tagliate. Ah, ecco. E adesso, proprio io do 147 sulla strada. Già, sto arrivando in voce, ma non fortissimo. Ma sono 5 fatto, mio, se pretendi. Ah, ecco perché. Guarda il mio apparato, è fatto. Non c'è un 25 fatto sotto al fondo schiena, eh. Ah, ecco una cosa. Ma tu sei da 4 a 7 e vuoi riuscire a dare meglio, dai? Campa, campa, qualcosa in più io dal 7 a 4 a 7. Vabbè, io farò la macchina perché la tua luce può dire. Campa. Tu hai tutto la mia campa, però... no, se faccio pure il bambino qua. Così è 2001? Ma è modificato. Spinge un bel. Basta attaccare, ci sentiamo tutti nel tanto. Ah, quello lo lasciamo in letargo, va? Beh, 5 fatti e basta la vaca, no, per modulare a Sassari. Ce ne c'è anche per il pulce. Gabba, oh, yeah. Aglio, la mamma in bici, cazzo, non ci ho fatto la dormita. Oh, yeah. Ero stanco, Beh, a parte che eri stanco. Che faccio? Boh, io non so quanto cammino ogni giorno, ma posso anche il conto. Grappa, là, è bianco per me, là, che so. Maggio di preparare. Chi scitti? Qualche volta sì. Ah, fa così la fratta umana, che bello oggi fai. Dai, bianco per me. Ah, il bombolino. Beh, Luca. Beh, Antonio, mi stavo lavando la pedisvella. Cazzo, non mi dovevo dormire. Sto parlando con Cristian pochi minuti fa. Sto parlando, capito? Cappa. Noi siamo andati a farci una passeggiata alle 4:30. Siamo orientati quasi le 6. Girella. Ho preso delle staffe, ho preso che col tassello da 14 per mettere il palo. Capito, Lu? Sì, Antonio, mi sono spostato un attimo a prendere una maglietta, già ti sento, parla. Ho detto, ho preso delle staffe che vanno bene col tassello da 14. Resisteranno. Sì, se il muro è buono, sì. Il tuffo è fatto. A voglia, se tu fu un tocchio, sì. Ho preso anche la punta, ho preso. Ma dovrebbe andare bene, cavolo. Basta che siano di quelle corte le staffe, non quelle lunghe. Ma ho capito. Ho detto le staffe, quelle corte, sì. Sì. Ah, ok. Quelle, per caso ha la chiave 17 o 19, quelli lì sono. Il bullone che ha vintano là, sì. Già vanno bene, io ho messo quelle lì, da questa che abita sotto di Marina, l'antenna TV, con quelle staffe lì, sono un bombo. Quanto costano quelle staffe? Sa, 5 euro l'una. Genere. Ma sul tetto gliel'hai messa? No, in terrazzo. Vabbè, molto ce l'ha di fronte. Capo, no, già... Una cosa del genere gli ho pagato, ma sono robuste però. E bangulisci, piazza me la putti. Vedi tu, vedi te. Adesso vediamo un po' domani se il tempo ce lo permette questo cacchio di antenna. Speriamo, buttarla giù almeno. Sarà un casino, Poi, se non si può fare niente, attacco la moneta e la vostra mille un pezzo. Già vendere un negozio. Già si può fare, no. Purtroppo, qualche volta succedono queste cose, cosa vuoi va? Nuda, cazzo, non so, mi sa che c'è 15 anni, sono solo 12 anni, non mi ricordo. Non mi ricordo, ho tutti i bollettini pagati, però non so, da che in che anno l'avevo piazzata. Forse 2012. No, ora sto dicendo 2008, no, 2008, aspetta, fammi pensare, c'avevo all'una, 2008. 2008, non sai che per problema, no aspetta, io all'1 l'ho preso nel 2008 e c'era già l'antenna del baracchino, c'era già, forse 2002, e un po' di anni c'è. Ma vedo, pensa a 200 anni per sopra. C'avevo già l'1, e il baracchino non ce l'avevo già, l'1 è morta... nel 2000, ma quando cazzo è morta l'una? Sono un po', 2008, 12 anni, 2020 è morta l'una, sì, è giusto, sì, 12, quasi 12 anni, sì, poi cioè, aspetta, fammi pensare, 2008, forse ho pensato nel 2006, 2005-2006. Questo gaggia è una di... L'ha pigliato di malasorte. Adesso vediamo, è il giro di balle che non si può abbassare il palo, forse è stato per quello che ci sei riuscito anche da solo. Me l'avrei smontata piano piano, c'è da solo a smontarmela, perché sul tetto lo salgo solo io, poi nel caso me la appoggio in terra, me ne stacco il radiale se ci riesco, porto su di CRC e poi una volta che stacco il radiale te la passo, ti metti sotto e te la passo, tanto già ce la fai a tenerla a voglia, cazzo miglioravamo da 50 kg da azzurro, 60, tanto è. Già la tengo, non ti preoccupare, piano piano, generale lampemmo. Vediamo un po'. Sono cose, un casino, ma già si può riparare, io so sempre che si può riparare. Certo. Poi vediamo, Antu, non so cosa è successo. Dopo passare anche da Natalino, fammi dare il PL nuovo, quello da... come si chiama? Quello uguale a quello della Manto, guarda. Ma gli metterò un paio di viti, cioè già ne ho viti quelli autofilettanti. Metterò quelli lì, poi vediamo. Se no compro i cosi, i rivetti, quelli piccoli piccoli. Passo un po', voglio sistemare, se ci riesco, così no. Io posso guardare la maradia, no? Purtroppo anche loro vanno a morire, Moriamo noi, morono tutti, non muore l'antenna. Già lo so, già. Già lo so. E che manna un bel, se no mi avevi abbosso la Superlem. Manna, tanto, ma sapete a tira. Tanto è una bella distanza le staffe, tipo adesso un metro, da uno all'altro, un metro almeno. Cappa, volevo mettere la gin polma, bisogna ordinarla. Posso, io, guarda, se non dovessi andare a buon fine con questa mi compro quella di Franco. Tanto io devo parlare solo qua, mi interessa parlare fuori. Quell'antenna spinge parecchio, va bene. intendente di basse, me. Basta che abbia stazionare le basse e poi del resto non mi interessa. Non ti sa quindi di na, ui, sa cosa la vuoi, va, per carità. Non è... costa poco e è a tanta resa. Ma infatti, chi ne sono? Le 18 e 57. Beh, io mi sa che ti saluto, se ci sei dopo, che adesso mi avvicino in cucina e mi prendo l'antibiotico, e oggi lo finisco, era ora, ragazzi, era ora, una settimana di antibiotico, tanto oggi non bevo, ma non mi interessa manco bere qua, credimi. Gabba, gabba, dopo ti racconto una cosa in privato, cosa è successo ieri. Ehi, quando vuoi mandare i messaggi su WhatsApp, dai, io mi risposto da qua. Ehi, allora.